è squisito veramente. Così dice a me non mi piace. Avanti Giaffa. Grazie Gianfranco, mamma mia. fare del muso, fai fatto quello con i bambini che faceva l'autista. Oh, molto, già, io sono un po' fuori dal mondo, però lo conoscevo perché so che era sempre lì al porto. Sì, sì, sì. Ma quei bambini, fa sentire la vita passantina. E diciamo che è morto tantissimi anni fa, non adesso, i bambini sono utilizzati. Andando a Sciaboletta, lavorava assieme a Bartolomeo. Qui da Bartolomeo? Sì, con la trasportore, sì, il collega di Ravone e Bartolomeo Chisiel. Si chiama per Baffetti, Bassottino? Sì, Fernando Sciaboletta. Non lo conoscevo, non so dove era morto. Vabbè, e gli affragli allo sortice fuori dal mondo, ma a me mi piace tenere questo controllo. Ero più di un anno che non avevo il crack, adesso sono tornato alla normalità. Aggiungendo la tesi da stamattina acceso, figurati. Mi stavo anche facendo degli aggiornamenti che volevamo fatti, in attesa poi che con Stefano dobbiamo rivedere alcune cose, ma non so, Stefano per prendere il QRL, quindi sarà impegnato. Non l'ho più sentito in questi giorni. Attento, principe, deve essere Olbia a pulire il cornicione. E lui ogni tanto va Olbia a pulire il cornicione. Sì, sì. Sto pieno di ricogini, capito che abita lui. Gli uccellacci, e quindi le sporcano sempre il cornicione, lui va ogni tanto, a 10 giorni, lo pulisce, lava per terra e poi se ne ritorna. E cos'è? È tutto sotto controllo, no? Io ho la Meraviglia Deluxe, dove c'è sempre il logo e poi il cluster dove passano tutti gli spot di tutto il Baravan, tutto il mondo. Che cosa? Lo stavo anche ascoltando, che cosa? C'è un GBS che è informatissimo, è sempre sul cluster, capito? È sempre lì che guarda, fa, arriva con qualche spot in un bicchio al Grisiano. Allora, su quattro via poi anche spot un cacchio operativo di chi si va giù. Uscì, arrivi dalla frutta. Attento, ratta pignara. Tutto sotto controllo ci abbiamo, noi già facciamo sé. Mino a fugà, mangia piano, ti ho detto. E quando mangi, raccogliti le ali, piano piano. Mamma mia, senti, affogando sta. Eia, buonasera a tutti. Io sono appena tornato e sto appena mangiando. Ero al centro ecologico ad ascoltare 40 metri. C'erano solo un gruppo di italiani a 7.065. Gli altri erano tutti francesi, tutto pieno di francesi, perché stavano facendo un contest aspetta com'era, ho sentito anche il nome del contest. Poi sono passato un attimino in 80 metri, anche lì sentiva con l'antenna tarata appositamente, no? C'ha quei ponticelli, già lo sai, la proxy è bruciuna. Insomma, riceve bene, bello. Ho portato l'857 senza il microfono, come se fosse un ricevitore. Vai Claudio. Io ero in 15-20, non so se hai sentito, anzi di 80, e intanto non ci vado quasi mai, perché intanto c'è sempre questo locale. Sto sempre in 15-20, perché c'è un'antenna che funziona molto bene lì, e in 40. 40 non ho fatto niente oggi. Ho fatto due collegamenti, uno in 20 e due in 15. Va bene. avanti già, hai visto, già c'era Tappigliara, stava mangiucchiando. Ciao, ciao Marco, piacentissimo, dai. Oh, io fra poco devo uscire, devo portare in casa, adesso devo andare a accompagnare Marco. Chi è, chi è? Puro Awal, personaggi famosi siciliani, capito? Lo conto se non tanto dei personaggi famosi siciliani, già fa, se ti può interessare, per carità. Chi è che chiama? Perfettamente, sempre in basso di segnale, ma la radio ce l'hai, c'è Marco, vediamo se ti ascolta meglio lui. Marco, Gianfranco lo stesso c'è che ti sente, io di segnale ti sento basso, però la radio per me va bene. Avanti Marco. Gianfranco. Hai sentito cosa ti ha detto Gianfranco? Nathalie. Natalino, Bobo, pure socio. Natalino, MNP4, India Whisky, Madrid, C4 Dex. Questo c'è uno stesso in 20 metri. Natalino. Ciao anche a Gianni, eh? Eia, sì, sono voluto uscire, visto che c'era il sole, ad ascoltare un po'. Però ripeto, tutto francesi, come ieri, tutto francesi, stavano, a giumai non riescono a modulare gli italiani, perché era tutto francese intorno, risplateravano sopra, sotto, allucinante. Ma ti vai a buttare a Taggia in Piazza d'Italia? Con le mascherine, non le fa tenuta? Sì, c'è la mascherina, ma ci sono anche i cani. Ci sono i cani, si gioca. Diciamo che oggi un po' era stabilità. Infatti c'è già la Piazza Castello, c'era gente con i cani lo stesso. Io farò una passeggiata al sole, capo, da lui c'è da tre giocare. No, mi fai piacere quando ci gioca. Sì, sì, un vivo. Ce l'ha fatto stamattina. È giunto lo babbo, quando lo fischia la strada. Non c'è Cristo, non ti devi mettere davanti perché ti abbatte. C'era la porta soffietto della cucina. Della cucina, soffietto in legno, della cucina, pesante grossa saiana, ha visto che era chiusa, non aveva passaggio, l'è passata in mezzo, l'ha spaccata in due, l'ho detto a Mario, portatelo via perché l'ha ammazzo, adesso devo chiamare il falegname, deve venire il fratello di mia suocera che l'ha fatta lui con la porta, smontarla, portarsi al laboratorio e vedere se può ripararla, spaccata in due, mi è costata 600 euro quella porta, 600 euro quella porta mi è costata, capito? Quindi da sapere gli organici, io c'è tutta la lì, è meglio che non si avvicini, ho fatto un danno allucinante. Proprio da Mario, non lo fischiare quando sei dalla strada perché diventa un pazzo, è intoccabile, chiunque si metta davanti ti distrugge, capito? Ha spaccato la porta, sai, quella soffietto, quel stile veneziano con i vetri, meno male non si sono rotti i vetri, l'ha aperta in due, è passato dentro come se fosse un pezzo di cartone. Già, non mi credi, ti sto dicendo, ha fatto un danno allucinante, c'è una noia che è nera, la porta è costata una barca di soldi, no, sono arrivato qua per separarmi la cucina dal salone, no, perché c'è una cultura, quindi si vede, chiudi quella, ma bella, ha fatto proprio simula, in via Sproni, fatto da mia socia, è costata una barca di me l'ha spaccata in due, se vieni, allora ti mando la foto su WhatsApp, faccio la foto e te la faccio vedere, spaccata in due, aperta, disintegrata, e gli dice boom, e lui è continuato a camminare, gli ha aperto la porta, mia moglie ci è sceso giù nelle scale, ha detto, oh, sia gatta, gasce d'uno, se trova qualcuno l'ammazza. Aspetta, una porta soffietto 600 euro, e cos'è? D'argento? E a chi ti dice di plastica, tu hai detto che è legno in stile inglese. fatta soffietto lo stesso, perché ho buttato giù una porta, siccome ho messo delle mensurine all'interno, e per non che ce la faccia bambini, allora gli ho fatto la porta soffietto, l'ho pagata lui lo stesso, da un per quattro. Ma è legno, questo è il legno, stile veneziano, con i vetri. E fa la marca, va. Non lo sai quanto è grossa? Ma grossa! Io ti faccio le foto dello spessore della porta e come l'ha fatta. E te lo posso vedere se ti sto dicendo basta. Riprendi Gianfra. Fa pagare a Mario. Ah, ma allora è più complicata, con vetri, agio compreso, dai. Credo fosse quelle proprio a soffietto, che l'apri con un soffio, vabbè. Ha avuto la forza di sfasciarla. Minchia, una potenza quel cane. Oh, l'ha sfasciata, l'ha sfondata, l'ha aperta in due, adesso ti faccio la foto e te la mando, così non mi prendi per bugiardo. Adesso c'è mia moglie che è nera. Ma è grossa, mi, è grossa. Poi per tirarla, beh, c'ho le guide, per tirarla è anche pesante. L'ha spaccata in due, l'ha aperta in due, l'ha fatta in due pezzi è fatta. Capito? No, ma io ci credo, non è che ti piglio per bugiardo, però caspita, ci vuole una forza, caspita, una forza non indifferente. Sarà anche fatto male magari. Non l'avrà manco sentita, mi, come la carta velina l'ha aperta. Vai Gianfranco. Leia, 160 metri? No, ah no, no, no, 80 metri la mia antenna arriva, di ricezione, insomma, qualcosa prendeva, certo, è un po' corta per gli 80 metri, però bene o male arrivavano, poi ancora era presto, dai, quando sono andato via era appena calato il sole, eccetera. Bene, bene, io ho mangiato il primo, adesso vediamo, c'ho sempre la macchina sullo passo calaio, quindi devo stare con un orecchio, l'orecchio teso, se serve. Non c'è un parcheggio, sai cosa vuol dire? Non c'è un parcheggio, né nella via, né su, in quella di su, né in quella di giù. Sembra che di domenica qua non esca nessuno, capito? Questi morti di sonno di via Nizza. A proposito di morti, vabbè, tutti morti. Qua l'ho dovuta mantenere per aprirla, per fartela vedere, ma è allucinante, guarda, allucinante, è grande come porta, qua, chiusa, come la spaccata in due, guarda, come la spaccata in due, spaccata in due, aperta. L'ho aperta in due, poi è passato in mezzo, si è disintegrata la porta, allucinante. Ecco, e beh, ieri notte festa grande da dove lavora tua figlia, beh, com'è andata? Gente c'era. Pieno, tornata alle 2:30. Pieno, mi lascia a casa. Adesso alle 8 arriva, è nuovamente in chiusura anche stasera. Anche stasera, prima arrivato a pranzo giù a passare da lì che pub già condito, ma spettacolo. Eia. E in maschera erano molti o no? O alla fine no? Tutti mascherati, era anche il personale, era mascherato. Lui era sempre in cassa con la bandana, la pirata, boh, era una greppa di pirati e gli altri erano tutti così, un po' alla. Però ci sono divertiti un bel di gente, c'erano una cinquantina di prenotazioni e poi altra gente che è arrivata dopo, capito? Ehi, da noi, la salute che se ne vai. E molti, magari quegli adulti si vestono a pasticcio, si mettono una bandana oppure si mettono un paio di baffi finti, cioè non è come a Venezia, no, che si mascherano bene, sono belli quelli di Venezia. Bene, bene, ma poi ormai i bambini ne godono, qua Sassari è una città troppo provinciale, capito? Gli adulti non si mascherano anche per strada, una volta si faceva, qualcosa si faceva, adesso non fa più. È una città troppo provinciale Sassari, non è come Venezia, come Viareggio, forse ancora a Tempio c'è la tradizione del, proprio del carnevale. Non so, però lì è così. Poi la giamma che ha fatto Sayanna, guarda quanto è grossa, te la sto mandando già. Il mese è passato, si è aperta in due parti adesso, in due parti, mamma mia, ma la guardo, mi stacco la testa, lo vedo che non si fa di mari, un piccio gabbo che fa. Ma non è che ha staccato lo snodo, praticamente che si è aperto lo snodo, dove c'è lo snodo? Sono già in mezzo, guarda la foto, in mezzo sono le... praticamente la porta era chiusa e quindi lui è passato in mezzo e l'ha aperta, l'ha sradicata dagli attacchi che ci ha rotto l'innesto, capito? E le cornicette le ho di nuovo incollate io perché c'erano tutte le cornicette in terra, l'ha spaccata in due da due parti, sai la porta soffietta come no? C'è il coso, poi la tiri e va dall'altra parte dove c'è l'aggancio, c'è anche la maniglia quella, guarda quanto è grossa la porta, guarda quanto è grossa è legno fatta da la mia suocera che lui le fa, capito? Siccome è molto bella, c'ha i vetri verticali stile veneziano, guarda mi piace dura, infatti gli abbiamo detto, cioè, viene in settimana la smonta e vede se riesce a rimettere la guida, se no ce la rifare tutto il pezzo nuovo. Allora lo comanda Pacchetta. Già se vedi a Filippo quando c'è Mario è da aspetta che abbasso che c'ho le bure lì. Sì. C'ho le bure lì. Accese, ecco qua. Se tu vedi a Filippo quando c'è Mario mi dici non è possibile, se ci fosse il poggiolo basso salterebbe anche dal poggiolo, sente il rumore della macchina, come parcheggia, come tutto, poi c'è un fischio particolare, sì, conosce, c'è un fischio che lui da piccolino, perché l'ha tenuto prima lui, poi l'ha portato qua, che non c'è niente a fare. C'è da fare, quello che c'ha davanti distrugge, desintegra, ti ho detto, se trova qualcuno scendendo dalle scale la ammazza. È partito, guarda, è da vedere, non c'è fai a tenere. È un bisogno. Per me è peggio di un bisogno, questo gatto, infatti da Gitto, questo non è un bullo inglese, questo è un bullpit, hanno venuto da là, una cosa allucinante. Allucinante, non lo fermi manco se ti ammazzi, nulla. La porta è che chi c'è una porta blindata, se no se l'ha baciato per Ayana, meno male quando è partito, aperto la porta e voglia ci è uscito. Se ti trova nelle scale ti fa cadere, ti ammazza, non ti passa sopra, non vede niente, lui vede solo che giù c'è Mario e che deve uscire con Mario. Oggi quando sono stato a testa, siccome avevo parcheggiato il sotterraneo, perché non c'è mai partito in Gerusalemme, e ho fatto le scaline, sono salito su, quando stavo tornando, sono sceso giù, arrivato, sono quasi all'ultimo scalino, a casa c'è arrivata questa coppia con questo bulldog, ma avanti, quelli grandi, non quelli bassi, un bulldog un bel grosso, mi sono cagato sotto, mi sono tirato a testa, mi ha detto, non si preoccupi perché è bravo. Ma ci ha messo a giocare con te, diceva 4 anni, si è voluto a giocare tranquillo, ma sanno un indole, sia bulldog che boxer, sono cani grossi che praticamente se ne è pagati l'una diventa animali di urlare, ma sono cani che sono molto sensibili. No, ma per carità, ma no, non ci sono discussioni su quello, sono d'accordo con te, però se lui chiama Mario, non c'è niente da fare, è una cosa, viene, è parigoso, braccio di ferro, non si fa avvicinare niente, un cavallo, mai l'hai visto, un cavallo pazzo, guarda la foto, tu guarda quanto è grossa quella porta, l'ha spaccata in due, vedi che ha aperta in due, sono due ante, quella rimane tutta unita, e l'ha spaccata in due, passata in mezzo, l'ha spaccata in due, un capo di pappo di giovane occhi. di Biafra. Io neanche anche sul cluster, c'è Sierra 5, Sierra 51 Dix a 1927, a 1927, poi c'è a 1904, 1.904, sì, ma spaziano lì, spaziano, 1850, 1859, Yankee Tango Zero Whisky, sì sì, vabbè. La Georgia pure c'è, Bissure, 21.273, no, non può essere. E comunque mi ho 1.833, lo stesso, no, non è un 160, non mi interessa quella guarda. E quella giudica, pure vuoi dire santamente, non basta, non c'è più spazio sul tetto. Aspettami adesso che finisco il lavoro di porre rotativo, un casino, non c'è più spazio di lavoro, non si può mettere manco un'antenna più, perché con i verticali ci sta, non girano le direttive. Vabbè, nonostante sia un palazzo grande, però i bracci delle antenne sono da 10 metri lungo, quindi è un casino. Va bene, Marco, hai finito di mangiare? Sì, ho mangiato il primo, minestrone buono, bello con fagioli, bello pepato anche, come piace a me. E ogni tanto mi devo affacciare, adesso vado a vedere se si è liberato qualche posto, oppure faccio un giro sopra o giù a vedere se... È una cosa incredibile, i bar sono chiusi, perché ci sono due bar qua, sono chiusi, sembra che la gente qua sembra una via di cadaveri. Non escono mai, sono sempre a casa, gente che conosco personalmente, a parte il lavoro, sempre a casa, cioè la macchina la vedi inchiodata lì, è una cosa allucinante, gente che non esce mai, non lo so, che vive in casa, proprio da reclusi. Dai, fatemi dare un'occhiata, dai, vediamo. Ma cosa devi andare, Marco? Cosa devi fare? Ma ci ho compreso, devo uscire, cosa devi fare? Devo trovare un parcheggio. Ah, mamma mia, non ti video, cucci. Non ti video, no. No, io già ne ho due parcheggi. Che Mario c'aveva 147 che l'ha ritirata venerdì da fare il tagliando e se l'ha tenuta sabato e domenica, e sta usando la 600. Quindi non ne ho problemi, una ce l'ha lui, la sua è ancora al controllo, io compro un controllo alla centralina e me la mia una ghetta con la BMW, quindi ci ha pigliato la mia, vabbè, non mi serve mai tanto. Sì Gianfra, sto vedendo 8.23, 8.76, 8.24, 8.53, comunque sono lì, ma spaziano anche sino a 1.900, 1.950. Non è una banda che mi interessa, però lo vedo anche adesso sul cluster, vedo che c'è traffico in 160, così te vedi, sono 1008, sirofono 9D, 1008, 1814, 9 quello uniti 9, e comunque già c'è, 1818, ma già spaziano, già salgono e scendono, dai, quella è più o meno la frequenza. Va bene Gianni, ti hai accompagnato a Fisù? No, adesso è presto ancora, le fermette dovevo accompagnare le fermette, devo scendere a terra, però c'è stato da mangiare prima, poi vanno a fare, non si dà molto, devo fare nulla, mi rilascio il sole, no, io l'ho già dato a mangiare a Filippo, adesso non so se lo portare. tutta l'aria, può entrare e andare via alle 8, se poi alle 7 e mezza, 8 meno 20 lo porto io, perché poi alle 9 meno 4 mi voglio guardare, si spengo. Le bue, le unghie, intanto non ci fanno niente accesso. Stacco qua, ecco, scusate un attimo, ecco qua. Abbiamo spento la parte VU che c'è l'interruttore a parte. E io ho già andato a mangiare Filippo, pure devo solo portarlo di qua. E così a voi ciccione, paesini, paesini, colosso, c'è sugar, sono fasciati i muzzinghini, ma che camminate la vada di ma mi sa che come ti ho detto io, Claudio, l'ho messo un'altra quella porta, sicuramente ci sono gli incappi tra un coso e l'altro, è tipo suonetto così, no, che fa? E magari la praticamente solo l'ho fatto uscire. Già, non ti posso fare la foto perché non riesco col telefono, bisogna aprirla bene, mantenerla. Dove c'è l'incasso? Sì, ti ho capito, dove dici tu? C'è il pezzo tutto rotto, ce l'ho fuori, l'ho tolto. E per non tenere, perché si vedeva la cornicetta, l'ho nuovamente incollata col coso, col come si chiama? Non col busti, che dai, comunque la fare io già ne fare niente, che tra l'altro me l'avevo lasciato Giulio, l'ho incollato nuovamente la cornicetta, però quella guida lì, quella guida, stai dicendo tu, l'incasso, è rotta, l'ha spaccata, perché è di plastica. Ah, ecco, ha spaccato la guida, appunto, sì, ma quella lì forse già si può cambiare, dai, non è niente di grave. Come ha messo la porta, come è andato di copo, si è facciato. È come un mio collega che molto intelligentemente hanno lasciato una pedana in piedi sotto la serrata che era aperta. Questo mio collega non ha visto da chiuderla. La serrata lì, ce l'ha presa e cosa succede? Che il filo che è avvolto alla bobina, ne esce tutto fuori, si è toccato la serrata scende di copo. E fatto sta che cosa ha fatto? Ha cavato la pedana di colpo, cazzo, come era sotto la pedana che si è parlato da serrata, si è rotto un ferro, proprio con ci cade la seconda dose. Poi da Dio mi c'è il telefono, che qua nella stanza dove c'è la radio, mi passa il genere, si fede di compararmi. Te lo mando, passi i genere. Ossigeni, bella disco, per carità, guarda, mi mando già che piglia l'auguri, e già vuoi ti dica, guarda la trippa che fa una tarichina, va. No, ma sai, soltanto non me ne ha mai fatto, non mi sta, mi tocco, però lo faccio anche solo e questo tanto non me ne ha fatto. L'unica cosa che fa è che aspetta la mia ciabatta solamente vicino a lui, quando si curica, e se la tiene vicino, deve essere che è un sensore, un sensore di mia, non lo so, se la metti lì, poi quando mi torno, cazzo mi fa più l'effetto e dopo la ciabatta adesso lì. No, questo non fa danno, sto dicendo però vanno bene il padre, vai da dire a capo basso fisso. Iaia, una grippa che varichina va. Quando lo chiama Mario, lo fischia Mario, venta qua. È meglio che tenisci all'avanti perché non si fa mai toccare né niente. Se trovo ostacoli se c'è da scavalcare è scavalca, se fa da passa dritto, capito? Non c'è problema, poi ce la si mette dritto nella ringhiera e quando lo fischia sotto dice aspetta, sto volendo apprendere, aspetta la macchina Iana, cazzo se non le apre la porta guarda, è una cosa allucinante. E via via. E beh, Marco, io, qui tutto tace. Qui le macchine le vedi ferme tutta la sera. Qua non esce nessuno, sembra che non escano mai, non vadano da usciano, non fanno mai un cacchio qua, capito? Tutti a casa. Oh boh. Aspettiamo un po', tanto quel signore nel garage non entra. padrone di garage non entra più perché sono stati fatti lavori di un certo tipo. Che? Sono stati fatti lavori di un certo tipo, quindi non è pieno di roba il garage, non lo usa, però parcheggia davanti anche lui, capito? Vediamo se ne trovo, dai, dopo. Uno ci sarà di posto, no? Ma tu non c'hai posto auto all'interno, non c'hai niente. No, no, qua proprio l'interno non esiste. Aspetta che abbassi il volume. Non abbiamo un parcheggio interno, assolutamente. Gianni ce l'ha, infatti gli ho detto, te lo invidio. Qua no, qua macchine in strada. Il garage ce l'abbiamo, ma è piccolo, ci sta la moto. Poi è molto difficile entrare perché è in una posizione assurda. È un casino, dai. Pazienza, ognuno ha quello che si merita. Senti, comunque in più lontano TV Antonello sul canale 20. Non so, c'è il gatto, visto che sul canale 20. No, io qua ne ho due posti auto, non mi posso lamentare. Ma anche fuori, se la metti fuori è pieno i parcheggi, non è che non ce ne siano, già ci sono. Avanti, Giafra. E ti sta bene, e fanno bene e così impari, come dicevano a Paoletto. Oh, ma... vivo lo stesso, io c'è il problema. Come il video sono sempre in radio. Nel canale vicino io c'è sempre gente. Se di volete basta asciutta. Un elettrone davanti, lui per rimedi. Una meraviglia uno che cambia ragione, bene, no, che rompe le palle. Invece di fare sempre di una fabbra. Sì. Vuol dire che anche per lui ci sarà il rientro di radiofrequenza. Bene, ragazzi. Ferma, adesso vediamo la pecunia, cosa riusciamo a fare? Se riusciamo a pagare questa assicurazione. Mi sono preso gli orari della sede agenzia assicurativa, che ha cambiato nome, diciamo, hanno cambiato le persone, ma e la sede è la stessa. Tutti i giorni dalle tot alle tot, poi martedì e venerdì mi pare. Vabbè, c'ho gli orari, dai, quando devo chiedere informazioni vado lì e so di che morte devo morire, dai. Ma vado io che paghi di meno, eh? Ma dove? Io vado, c'è la notizia della polizia, c'è questo subagente che praticamente fa tramite con tante agenzie assicurate, però e ti dà quella che ti conviene, tu dire che qual è il problema, ti faccia il conto con questa agenzia e ti fa i conti, guarda che costa di meno, tu e ti rapisci. Io ho risparmiato 500 euro quando sono entrato lì, tra l'assicurazione di mia moglie, l'assicurazione mia e la mia. Vabbè, no, io c'ho sempre la Vittoria, sia l'Alfa, la 600 e le due moto. Con la 600 pago 204 euro all'anno, figurati. La 147 ne pago 436 o 56 all'anno. Ma no, ci sono tavalli, però c'ha prezzi buoni, molto buoni. Non va la Vittoria, perché ne pago 600 e passa all'anno? In via Don Mezzoni, 50 metri prima di dove abita Fabrizio. Ah, no. Io per la mia ne pago 600 qua, 296 ogni 6 mesi, no 396 ogni 6 mesi. Già vai, con 3.000. È un 9 la mia, sono 50 cavalli. Stai pagando troppo, un bel stai pagando. Infatti poi con la storia che è successa della moto non ne faccio più di assicurazione, perché avevo fatto l'HD per la moto e adesso questa strotta qua ha dichiarato il falso, ha dichiarato che me l'ha fatta cadere dall'altra parte, che l'ha toccato, che ha toccato la ruota davanti con quella di dietro, insomma ha detto un po' di male, che la macchina c'era la marcia avanti non la marcia indietro, insomma ha detto un po' di cazzate. E adesso a casa sai che l'hai buttata, perché perché queste storie? Poi mi ha telefonato questa amica mia, mi dice già, lo sai che la mia, che mia madre, quella che sta bene, diglielo cavolo che faccia sì, adesso glielo dico, non ti preoccupare, e invece non c'è più stata risposta, adesso mi è arrivata la lettera dell'assicurazione, che se non c'ho testimoni non mi paga, che praticamente faranno tutto come la legge. Ah, Lucia. Perché è Claudio, perché sono gran piazza e non mi voglio mettere avvocato, pagare l'avvocato, insomma, perché l'anticipo glielo devi dare, almeno 500 euro glielo dai l'avvocato. Non voglio pagare perché ci rimetti più voi. Quella c'è una cosa ci lascia, se non c'è testimone. Testimone c'era, però sono tornato, mi sono questo che affacciato, gli ho chiesto se era lui, ma no, io non mi affaccio così, ma mi sono affacciato in questo momento, però non mi affaccio così, ma alla fine. Se non è quello che c'è vicino, lui abbiamo trovato vicino, non era lui. Insomma, un ministero ho cercato di indagare, di fare, che c'era a fare, adesso trova il testimone che era affacciato, che addirittura ha detto signora, proprio perché non è possibile abbia fatto tutto questo danno. Lui ha detto, signora, perché la moto pesando 10 kg, l'ho avuto anch'io quella moto, per forza ha fatto danno, l'ha fatta attenta perché ha continuato a andare, l'ha lasciata. Ma te l'ho già detto, quello mi ha fatto la butta. Dai, io sono Vittorio, sono numero 25, Marco Vitti, adesso in compagnia di Gianfranco, se vi trattenete io vado e porto il cane, anch'io, e poi risalgo, dai. Ok, ci sentiamo dopo, riprendi Gianfranco. Se vado anch'io, dai, il cane. Gianfranco, forse Marco è andato a parcheggiare la macchina, dai, già sta salendo subito. Rimani qua in ascolto, già torno subito. Ehi, a vita le foto già. Dai, già ci sentiamo dopo, già torno subito. Ciao Vale, ehi, vai già di Udù. Ehi, ciao Vale, dai, rimani qua già, torno subito, ciao. E vai, qua Vale, vai. Sì, ti ascolto bene, ancora. Segnale dopo, Radio 5. Ciao Lugarie, ehi, Natali, già stai andando bene di radio, io però il segnale ti ascolto basso, capito? Sei molto vicino a Luca, quindi ti sente bene. Vanno a portare il cane, sentiamo dopo, ciao. Ciao Claudio. Vabbè, comunque, se ti ascolto bene non ci sono problemi. Sempre famoso Typhoon volume più 4. Cosa? Sì, alla fine, vabbè, noi che lo sto usando un bel poco. Perché ci sono, vabbè, oggi che sono da presto, dalle 6:30 a casa. Perché devo fare l'insulina a mamma. Poi la mia ragazza domani lavora, la macchina la tiene lei, perciò accompagnami a casa, così mi rilasso anche un po'. Da poco diabetica. No, Melito. Non so che tipo, se è Melito, senza tipo 2 o tipo 1. Allora fa 8 unità, 10, allora 8 a colazione, 10 a pranzo, 8 a cena e 16 quella che copre tutta la notte. Sì, vabbè, la dieta la sta facendo. Ciao Concetta, ti ho sentito sottovoce. Ciao, sta facendo la dieta, sono tipo stanotte brodino, un po' di bietole e mezza mela. Sì, l'abbiamo fatta alle 7:15 e alle 7:30 si è messa a mangiare. Poi verso le 10:15 circa di misura gioco la glicemia e poi li faccio la notturna, cioè quella che ricopre tutta la notte. Vabbè, mamma ne ha abusato comunque con i due. Ci aspetta un attimo, Natale, che è seduta, se mi avvicino un attimo in cucina, arrivo subito. Ciao, eccomi Gianfri, l'intratto era tabiniano. Cosa? A mangiare si è andato Gianfri? Cosa? Che se ce n'è tutto il passato? Ma che ho riconosciuto? Chi sei? Oh, oggi, porca miseria, è tutto impazzato, sì. Segnale fortissimo, in zona, sì. Ma quanto è brutta la modulazione, oggi. Ciao, buonasera. Ma brutta, però, vogliamo fare qualcosa. Ne ho parlato con Massimiliano, chiamalo, ti ho detto, che c'è un suo amico che c'ha una bella radiolina per il camper. Secondo me il microfono oggi, perché la radio non c'ha niente, guarda, non lo so, bisognerebbe abbinarle qualche microfono, qualche mattina, adesso domani, tanto noi siamo ancora a casa, qualche mattina ti chiamo, scendo, voglio fare una prova, perché la radio, la 48 va bene, è una delle migliori per la macchina, oggi. C'è qualcosa che non va, ma non come segnale, come è microfono, un abbinamento microfonico non è azzeccato. Allucinante. Un bel brutto la modulazione. Vabbè, ma cerchiamo di recuperarlo oggi. Capito? Però tu senti Massimiliano, fai come ti ho detto io. Che ho un suo amico, un suo collega di lavoro, c'è un bel baracchinetto per il camper, come lo vuoi tu, piccolino, capito? Mi pare sia 40 canali più 40 canali. Bellino, riesce anche molto bene, perché io l'ho sentito, l'ho provato a casa sua. Gli ho detto anche di questo scambio, ho detto vediamo, non c'è problema, però chiamalo, sentilo, mettiti d'accordo con lui. Questo è pessimo veramente, Marco. Ehi, sono rientrato Clau, ho fatto un giro sopra, sotto, niente, non c'è un posto, è una cosa incredibile, incredibile. Si è proprio cupo, sembra Giuseppe, non voglio ripetermi, ma gli aggiunge 50 anni di età questa modulazione. Allora era meglio proprio lo ZG, tra i due era meglio lo ZG, però vallo a sapere. Cosa vuole che lo finisca? Non lo so, che sia troppo più cazzo, no, non penso. No, lì, hai sentito? Dice che è toccato, perché anche col microfono normale non andava bene, capito? Non andava bene. Non lo sei amplificato, sei cupo, ma gli fai un pattato in bocca, tutto, cioè, molto male. La modulazione è bruttissima, EG, è bruttissima, proprio brutta. Non so cosa dirti, non so cosa dirti. Vabbè, comunque, in settimana, adesso fammi liberare, domani c'è una visita di controllo, in settimana vediamo, ci sentiamo, vediamo organizzarci e fare che cosa, perché boh, mi sembra strano, mi sembra strano. Non me la prendo e te la controllo a casa, attaccandole qualche microfono, qualcosa, vedendo un po' se riesce a recuperarla, capito? Perché ma dall'anno 48 è il numero uno in macchina, è il numero uno, è il migliore che c'è in macchina, io l'ho avuto, l'abbiamo avuto tutti e funziona veramente molto molto bene. Vai Marco. Lui Claudio, l'Alan 48 è un baracchinaccio come tanti altri, non è che vada bene, se per questo è il migliore in macchina il 3009, perché è più silenzioso del 48, molto più silenzioso il ricevitore. Guarda, l'Alan 48 è uguale al 548 SX che io possiedo. È un baracchinaccio, senza voler offendere nessuno, ma è un baracchino omologato, di origine omologata almeno, che non. No. Io ce l'ho in macchina, non, se me lo rubano non lo piango di certo, capito? Piuttosto gli avrei voluto prestare lo ZG. Ah, una cosa però, se il baracchino è stato toccato, magari al tarato in qualche sua parte, inutile abbinare i microfoni, vuol dire che è stato alterato il modulatore, capito Claudio? Quello ha detto Eugenio, che è stato toccato, scacciavettato, gli hanno regalato una radio vecchia, capito? Però io ti ripeto, vabbè, può essere anche un baracchinetto del cavolo, ma io l'anno 48 ce l'ho avuto in macchina, normale, poi modificato e andava molto bene. Natalino ce l'ha avuto una vita l'anno 48 in macchina, andava molto bene quello di Natalino, tutti ce l'abbiamo avuto e andavano bene, capito? Però l'importante è che non sia toccato, se ti vuole toccarlo allora è un casino. Comunque oggi facciamo la prova, dai. Tu nel frattempo senti a Massimiliano a vedere cosa ti dice e poi vediamo un po'. Quello di Porto Torres e magari non si via, non lo so. Comunque tu senti Massimiliano, si monta quello là sicuramente molto meglio di quello, e questo cerchiamo di recuperarlo, quello che si può fare si fa, vedere un pochino se è la radio, se è il microfono, vedere un po', capito? Non so. Natali, cosa stavi dicendo? Tu c'hai un microfono? Sembra proprio quello, Natali, della modulazione, tu non lo senti? Ma guarda che la modulazione è cupa, chiusa, cioè sembra proprio che ci abbia qualcosa in bocca, capito? Sembra proprio quello toccato. Sì, perché però poco da provare c'è Natali, cioè il DM1000 esce bene, io te l'ho fatto sentire sul 3009 ed esce bene. Quindi, escludendo il microfono, è l'apparecchio che è stato toccato, non esce così il DM1000, proprio è soffocato, è tutto capito? Sì, Claudio, io ho lo ZG, quello, cioè, anche se gli metti un microfono buono, che esce più acuto, se il modulatore è stato toccato o quello che è stato toccato, uscirà sempre alterata la radio, capito? Noni, è stato aperto. Boh, non so. Questo era un residuo di garage, a quanto dice Eugenio, capito? Quindi molto probabilmente, non lo so, aveva qualcosa da rivedere, da fare, non lo so. Comunque, si settimana vediamo, tu intanto ci senti a Massimiliano, già ti dice magari se lo fa dare, o forse ce l'ha lui con la radio, non so. E si fa la prova, si stacca quello e si attacca quello lì. Se quello lì funziona bene come deve funzionare, basta. Rubili, capito? E quello lo tieni di scorta, non si sa mai. Vediamo un po'. Dove sei arrivato? Voglio vedere il segnale. È quasi 9, sì, c'è l'altone. Finito di fa brutto i winti, eh? Bello bello. Traditore! C'è altro tempo. Per me c'era il ricci chiuso quel barchino. Sta uscendo così, male che sta usando un coso, un comodo che. C'era il ricci chiuso. E dalle, ma l'LC non gliel'ha aperto Massimiliano? Non so, io come sento questo barattino adesso, per me l'LC è serrato, più questo poi, perché se fosse stato l'LC aperto, tanto è l'amplificazione, l'avessi sentito pum, proprio a maletta, l'avessi dovuto abbassare il mic game. Quanto me sembra che ci sia qualche errore nella connessione microfonica, perché vedi che innesca pure. Quanto me. Non ho capito che sta dicendo a me. Oh, sento che sta fischiando, potrebbe essere anche stazionare magari l'antenna, niente di strano. Però c'è questa modulazione proprio brutta che non l'ho mai sentita io. Sembra che ci abbia la legge soffocato. Sembra Natalino quando si è comprato quel baracchino famoso che si aveva messo in macchina, che sembrava uscendo da un'altra tomba. Poi quando aveva sollevato la legge ci va benissimo. Ricordati. Allora, il DM1000 a me in macchina innesca, in macchina mi innesca, non so se è perché ho la base magnetica, non lo so, lui c'ha l'antenna davanti al vetro, sul cofano, magari sono rientri di RF, anche quello. No. Assolutamente no, perché è stata controllata la temperatura antenna eccetera, adesso l'antenna lui ce l'ha sul fianchetto, è tutto a posto, è la modulazione che è brutta, perché come segnale è buono, capito? Come segnale è anche buono, perché è 7, 8, 9 ed è già ottava, quindi va benissimo alla grande, è proprio la modulazione che è impressionante, è chiusa proprio, capito? E il DM1000, come dice Marco, è un buon microfono, perché ce l'hanno un po' tutti e escono bene, c'è qualcosa proprio nella radio che non va. No, a me mi innescava, ma uno e uno in macchina, Claudio. È proprio che è poco protetto dalle RF, è poco schermato il DM1000. Almeno a me lo fa. Poi agli altri non lo so. Io conto che la base magnetica magari influisce quello. Ci sono tanti fattori, almeno un bel di fattori possono essere. E se no, cosa c'ho io? Io se vuole li potrei dare. Come si chiama quel baracchino, mannaggia? L'Alan 48 XL Multi, non lo sto usando, c'è solo il cavetto da rifare perché era già nastrato, mi si è staccato, capito? Però usciva bene in AM, usciva bene, è forte col microfono normale, capito? Cioè c'è un po' rumoroso magari, soprattutto in macchina. Che rumorosetto, ma una volta che metti lo squelce per eliminare il rumore di fondo va anche bene. Dimmi oggi, otto pieno, dove sei? No, va bene oggi, va benissimo il segnale perché sei 8, considerando che tu non hai lineare, non hai niente, sei un 4 watt, 3 watt, va benissimo, alla grande, bisogna migliorare la modulazione, perché come impianto va bene. Già ho capito, vabbè. Comunque microfono non c'ha niente, allora è la radio. Senti a Massimiliano e bisogna recuperare quell'altra, capito? Se no quella lì bisogna staccarla, la attimino, ci dà l'Antonello, fa due prove, due cose, lui la conosce bene, e si vede se c'è qualche trimerino toccato da rimettere a posto, capito? Ma l'unica cosa è possiamo fare la prova se quando vuole lui, se lui non sa cosa fare il sabato, oppure dopo venerdì. Se non c'è da fare venerdì o sabato domenica, sale qua due minuti, attacco con le 4.000 con il microfono questo qua e vediamo se fa la stessa cosa. Se dovesse uscire benissimo vuol dire che è roba di cosa, non facciamo altro che portare l'apparecchio portando qua su, mi metto le cuffie e controllare qual è il problema. Però se sia un crimine, no? Una fesseria, niente di strano, magari ha delle connessioni sbagliate, potrebbero essere fatte in fretta e potrebbe essere quello di anche il problema, niente di strano. L'M1000 esce bene, è come l'M300, è strano la cosa. Farci contatti ha pure. Può fare anche sabato, non c'è problema. L'ho detto, sabato, come tu venerdì, sabato, domenica, io sono libero, perché adesso questi tre giorni sto facendo dei documenti e devo andare a fare il foglio ISE, quindi non sei la parte del foglio ISE è un casino. Adesso ovviamente devo andare alle 7:30 per essere su alle 8 al monte, se no quella lì è da mettere in continuità, non mi va tenuta. E poi devo fare un ricorso, è una cosa strana, classe, l'immagine, mi ha fatto la visita medica lì all'Inps, all'ufficio, come si chiama, da medico legale, gli ha dato 515 in più a febbraio e li rivolgo indietro, mentre la percentuale non è cambiata, l'invalidità è 700%, però hanno in più e li rivolgo di nuovo indietro a casa l'Inps, allora fare il coso, eh? Verità. Bisogna stare attenti all'Ips. Uno ha fatto una proposta allucinante. Se voglio andare in pensione, posso andare in pensione anche dal prossimo mese, lo sai. Però devo aspettare a 60 anni a percepire la pensione. Però vado avanti, mi rimangono tra i due e mezzo. A razza di cosa? E così vengo a mangiare a casa sua. Ma non ti impicchi, per carità di Dio. La razza di proposte che fanno. No, per noi è tutto in regola, guardi, lei già può andare tranquillamente perché i contributi ce li ha tutti, però purtroppo deve aspettare almeno che copia 60 anni. Cazzo di va 58. È un cosa magno, un limpice magno, che te varia un raio, te varia che. Credono che la gente campi d'aria. Ma cosa sto dicendo? Gli hanno fatto la visita, l'ho fatta vizendomi. All'Inps, lì al visto a Venezia, all'Inps la prima cosa lasci perdere, vai giù in fondo, c'è il medico legale. Mio fratello lì è arrivato in barella. Quando mi è scappato la vita, quando l'hanno fatto entrare dentro, gli hanno detto agli infermieri, dice, mettete la barella giù. E io ho detto, ma che cosa? Dice, signore così così, si alzi. E io ho detto, alzarsi mio fratello, ho detto, se c'ha, gli ho detto. Nella piscita gli ho detto quella cosa, gli ho detto, non si è mai mosso, ho detto, dal secco minimo da un anno e mezzo. Allora va bene, dice, lo controlliamo così com'è, no? Sollevato lenzuolo, no? Tutto a posto. Mi ha detto, mi dai i fogli, dati i fogli. Abbiamo visto, non c'è niente altro da fare, mi ha detto. Cioè, abbiamo visto completato le cose. Dopo un mese, perché la visita l'ha fatta a gennaio, dopo un mese mi è arrivato questo foglio qui adesso, mi è arrivato quello del 100% che è in pratica lui, l'invalidità ce l'ha e quella lui ha tolto, no? Però lì ci ha dato 515 in più e lui voleva indietro a 50 euro al mese. Mi ha detto, al cazzo si attaccano. Ah, gliel'hanno diminuita, boh. E cosa aspettano per diminuirgliela? Cosa vogliono? Che abbia per dargli il 100%, che sia senza gambe, senza braccia. Signori, dai, vi devo salutare, devo cercare un posto auto, dai. Ci vediamo domani, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, Tonello. Claudio Natalino, Benito, sì, buonanotte, Benito, vabbè, già hai capito, sì. Ci sentiamo domani, dai, quelli ti per me. Ciao, ciao Marco, vai a cercarti posteggio, vai, intanto 8-5 minuti, poi chiudo, che vado a cenare. Sto dicendo che fanno delle proposte allucinate, Antonio, lascia per lì, fate la giudizio, ma, cioè, non ho capito cosa sta dicendo. Poi lì è tutto a posto, ha tutto in regola per poter andare anche da subito, però deve aspettare il compimento dei 60 anni. Sta dietro 48, ma combatti, come l'uomo è allucinante. Vabbè. E oggi dove sei? Eugenio è già parcheggiato, e comunque già lo sento io in settimana, Antonio. Vedo un po', se riesco a farmelo portare o andare a prenderlo col baracchino, le dai un'occhiata. E poi vediamo cosa cavolo c'ha, dai. Io vi saluto che pronto la cena, ma già chiamato mia moglie. Ciao Natalino, ciao Antonello, ciao a tutti quelli che sono in ascolto. Non qua sicuramente. Ci sentiamo domani. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Clara, ci sentiamo. Buon credi, ciao Marco, buon credito anche a te. E ciao a tutti quelli che sono andati. Adesso per farlo la cena e poi domani mattina mi tocca andare di là, a girarmi i coglioni con per fare il corso con il caffè, cazzo te ne immagino, spendere il soldi solo. Ho speso tra 80 per farmi un foglio per l'aggravamento, 25 per accompagnarla al corso. All'Inzica, 125 euro mi è costato. Avevo avuto a perdere qui 500 qui, dice no, se la pigliano in culo, se la piglia l'Inps, domani faccio il corso, vediamo un po' cosa cazzo succede. Se la troncano in culo, cazzo, se la troncano, cazzo, perché cazzo non farò di corsa con i coglioni politici, cazzo?